l'1 febbraio, KXT. Poco fa ho registrato un podcast esattamente come questo, poi il computer ha fatto cilecca e io da stupido, quando si è riavviato, ho cliccato sul bottoncino sbagliato e ho cancellato tutto quanto. Vabbè, capita, guarda caso stasera leggevo proprio di Dave Slusher, uno dei papà del podcast, quello che a me piace più, insomma me l'avrò citato 2000 volte, che ha avuto lo stesso problema con Audacity, quindi ha giurato a se stesso che d'ora in poi registrerà con qualcos'altro. Nel mio caso non è Audacity, è il computer che si è proprio crashato. Beh, avevo provato a incidere sto podcast su Linux, ma io e Alsa, che il sistema per la gestione dell'audio, delle schede audio sotto Linux, ancora facciamo un po' cazzotti, quindi sono rimasto sotto Windows e questo è lo sconto da pagare. Vabbè, la musica di apertura, come al solito ormai, come al solito non tanto perché l'abbiamo cambiata solo l'ultima volta, ma insomma, d'ora in poi vi proporremo uno dei brani che ci è piaciuto di più della settimana e che ovviamente è disponibile gratuitamente per il download, visto che probabilmente se ascoltate i podcast avete un lettore MP3, magari anche la buona occasione ascoltando il nostro podcast per scoprire musica nuova e riempire un po' gratuitamente, senza dare sempre soldi alle major, il vostro sudato o regalato lettore MP3. Finiamo di sentirci Juliana Hatfield, una cantante che viene dal Massachusetts, che ha studiato al famosissimo Berklee College of Music di Boston e che ha deciso che i brani che non trovavano spazio sui suoi CD li avrebbe messi gratuitamente su internet, e questo è uno di quelli. Direi che la qualità parla da sola e finiamo di ascoltarcelo. Gorgheggi sfumiamo un pochino, mi piaceva di più quando cantava, a parte che poi il brano è finito, quindi ci siamo. E a proposito di voci femminili, ci ha più o meno intervistato per email, poi mi ha fatto una telefonata in ufficio una giornalista che forse ci sta ascoltando, la salutiamo, ciao Arianna, che scriverà un articolo per Glamour su podcast. E beh, insomma, segnale che anche in Italia i media si stanno un pochino interessando a questo nuovo strumento. Già ci aveva intervistato Jack, o comunque chiesto dei consigli, un giornalista di Jack, per un articolo che comparirà a pari sul prossimo numero. E beh, noi più o meno ci limitiamo a dare dettagli tecnici per quanto è nelle nostre capacità, e a questo proposito vi invito, se foste interessati a fare un podcast vostro, vi invito a andarvi a leggere una news group creata da poco in italiano sui podcast, in cui scrive il famoso webmastro di Caffenichinismo, che hanno un podcast, hanno anche una radio via streaming via internet, e scrive Antonio Di Pendo Deliri, e beh, scribacchio anch'io lì sopra. E forse qualcosina di buono, magari una mano a chi ha le prime armi, sicuramente la si può dare, come nelle migliori tradizioni di Usenet. E beh, settimana scorsa non abbiamo fatto un podcast, questo weekend era il mio compleanno, ho colto l'occasione per fare una scappata un po' via da Milano, cosa che non mi succede mai, praticamente mai, e quindi tutto il materiale è rimasto lì a maturare, e un pochino lo sentirete stasera, altro materiale cui poi se ne aggiungerà di nuovo nelle prossime puntate. E sempre materiale audio sto parlando, perché beh, mi sembra interessante, non ve lo ripeto ancora per la centesima volta, e comunque sto seguendo un certo numero di blog americani molto belli che fanno questo mestiere in maniera seria, e noi raccogliamo un po' le briciole, quello che ci piace di più ve lo proponiamo. Beh, oltre alla musica, settimana scorsa siamo stati alla Libreria del Giallo. Perdonatemi un po' tardi, poi al secondo podcast ogni tanto un po' la concentrazione se ne va. E siamo stati alla Libreria del Giallo, non per intervistare Tecla come vi avevo promesso, che per chi fosse all'ascolto per la prima volta la decana del giallo italiano, ma per ascoltare una delle tante conferenze che si tengono, incontri con gli autori. Questa settimana scorsa, cioè, c'era Lawrence Block, un autore americano molto conosciuto di gialli, che ha due personaggi abbastanza famosi, che sono serie che vanno avanti più o meno dagli anni 70. Uno è il classico investigatore privato un po' cinico e che vive un po' ai margini della società come altri di quel periodo, anche prima. Sto pensando a Travis McGee di John McDonald, che è un personaggio che chi ama il giallo probabilmente conoscerà, e se non lo conosce, beh, si vada a cercare qualche romanzo di John McDonald che vale veramente la pena. Che era non era proprio un investigatore privato, era una specie di, lui si autodefiniva quasi un barbone, anche se aveva una barca ormeggiata, su quella viveva e poi aiutava la gente a recuperare patrimoni o situazioni andate un po' a male. Ecco, e come Trace McGee, anche uno dei personaggi di Lawrence Block ha un po' questa visione un po' cinica, disillusa, almeno nei primi romanzi, vive un po' ai margini della società, in questo albergo a New York, dove paga 2 lire, separato dalla moglie, che non vede più, insomma, ha lasciato la polizia dopo qualche brutta esperienza, soprattutto di coscienza. E quindi la classica visione del mondo, un pochino, non acida, ma sicuramente cinica, e distaccata della migliore tradizione dei gialli americani, scritto con anche una buona dose di ironia e umorismo, come spesso questi autori hanno. E la seconda serie famosa di Lawrence Block è una serie che tratta di un ladro e lo segue in tutte le sue peripezie, nei suoi colpi. Questa forse è un pochino più leggera dell'altra. E Lawrence Block, non molto conosciuto al pubblico italiano, e beh, ci faceva raccontare da Tecla un po' le sue peripezie editoriali. E la qualità della registrazione non è ottima, perché non ero lì con tutto l'ambaradan che serve per registrare bene. Avevo il mio fido IPAC, che è sopravvissuto all'ennesima caduta con rimbalzo, ma comunque era ancora abbastanza in forma per registrare. Ascoltiamo Tecla. Non è facile presentare tanto scrittore. Inizierò con un breve, piccolissimo episodio che mi è successo venerdì, cioè giovedì e venerdì. Qualcuno di voi sa che io sono stata a Barcellona, che c'era il primo incontro della novella negra e criminale. E c'erano per cui un sacco di scrittori e tutti gli esperti, c'era tantissima gente ad ascoltare questo convegno, una roba serissima. Io a uno degli organizzatori, dei grandi esperti, a un certo punto giovedì, durante una pausa dell'incontro, ho detto: ah, sai chi viene mercoledì in libreria da me? Lawrence Block. Questo mi ha guardato come se fossi pazza. Cioè, Lawrence Block. Da quel momento, ogni persona che noi incontravamo, questo gli diceva: ma sai chi va in libreria da lei mercoledì prossimo? E tutti, Lawrence Block. Cioè, tutti, che invidia. Ma perché lo sappiamo con così poco anticipo, se no saremmo tutti a Milano? Questo per dire che Lawrence Block in Spagna e in Francia è considerato una specie di mito, uno scrittore di quelli che è impossibile che ti vengano a parlare, a vederli. Ha scritto dei libri da sempre, uno legge i suoi libri e non può addirittura aspettarsi di vederlo. Per cui, cioè, devo dire che mi sono sentita bene. In Italia noi vorremmo che succedesse la stessa cosa, perché chi lo conosce, e lui ha avuto questa storia, che è una storia abbastanza sfortunata per certi aspetti, non come numero di copie, perché quando lui ha incominciato ad essere pubblicato dai gialli Mondadori, i gialli Mondadori vendevano veramente tante copie, però è un circuito comunque ristretto, che è quello, per cui i lettori dei gialli Mondadori lo conoscevano piuttosto bene. Però fuori dagli utenti delle edicole era abbastanza sconosciuto, anche perché era il momento in cui lui veniva pubblicato, era proprio il momento in cui i gialli erano solo in edicola, per cui era proprio utente diverso. Poi Gianfranco Orsi ha fatto 2 o 3 titoli suoi nei Miss Book, però che hanno avuto vita brevissima, e poi è stato mollato. Devo dire, non per presunzione, che poi in libreria, il tentativo di recupero di Lawrence Block, che l'ho proprio fatto io, ma insieme a Parker, a Kaminsky, questi grandissimi dimenticati, per la Hobby and War. Poi vabbè, io me ne sono andata dalla Hobby and War, la Hobby and War ha continuato con i titoli che io comunque avevo già preso e opzionato, e poi è ritornato l'oblio. Cioè, io forse l'ho già detto l'altra volta, però io credo che noi lettori di letteratura di genere dovremmo un domani veramente fare in modo che venga intitolata una strada o fatto un monumento a Sergio Fanucci. Perché Sergio Fanucci sta facendo... Vabbè, qui Tecla presenta la nuova iniziativa di Fanucci, che ha deciso di acquistare i diritti per l'Italia di Lawrence Block e di ripubblicare i suoi romanzi. E en passant, Tecla ha menzionato la collana dell'Hobby and Work, che era una collana, credo 6-7 anni fa, forse qualcosina di più, che lei seguiva e in cui ha pubblicato alcuni dei, o comunque intendeva pubblicare, poi non è riuscita a completare l'opera perché è stata interrotta brevemente, alcuni dei più grandi giallisti italiani e stranieri, beh, tra tutti Lucarelli, che molti di voi conosceranno, beh, ormai è famosissimo, e che all'epoca aveva i romanzi, i suoi gialli della serie ambientata durante il fascismo, come Carta Bianca e gli altri, molto belli, e che erano pubblicati da Sellerio, e poi qualche romanzo, mi sembra fossero due, più un librettino di Cogliandro, pubblicati da un'altra casa editrice minore. E beh, Tecla li ha ripresi, li ha fatti conoscere al grande pubblico, li ha tolti, e poi soprattutto per gli autori americani come Parker, che è uno dei miei preferiti, li ha un po' tolti dal ghetto delle letture da ombrellone che sembra essere, cui sembrano essere destinati un po' gli olli Mondadori, i libri che comunque escono in edicola, letture da ombrellone, letture da metropolitana. E beh, gli appassionati di gialli sanno che tra i libri pubblicati dai gialli Mondadori, forse non tutti, ma adesso con questo mi attirò le ire dei cultori del genere, comunque tra i gialli pubblicati dai gialli Mondadori ci sono autori eccezionali che all'estero sono anche molto molto ben considerati anche sul piano letterario, e poi vabbè, in traduzione perdono un po' sicuramente, anzi molto, e però comunque sono sempre autori molto molto noti, e Lawrence Block è appunto uno di questi. Sentiamo un altro breve pezzettino in cui questa volta Lawrence Block a parlare, poi c'era l'interprete che traduceva per chi non capisce abbastanza l'inglese da poter seguire nella sua lingua originale Lawrence Block. Lawrence Block, che, vabbè, presentiamolo brevemente visto che poi non potete vederlo, non eravate lì, è un signore tra i 65 e i 70 anni, beh, ovviamente americano, sta a New York, anche se non c'è nato, è nato nello stato di New York comunque, è alto, allampanato, il classico, mi verrebbe da dire, il classico bostoniano, comunque americano della costa est, ben vestito, con scarpe grosse, la sua giacca, aveva un panciotto di pelle che forse era un pochino fuori carattere, ma non tanto, se lo consideriamo, se consideriamo comunque americano, e quindi ha dei gusti in abbigliamento un po' diversi dai nostri, ma comunque molto distinto, molto elegante, molto professionale ovviamente, come sono quasi sempre gli americani, e beh, il suo essere scrittore, quindi comunque creativo, era clamorosamente denunciato, almeno per chi era in prima fila come me, da un bel buco sulla perfetta calza lunga blu che aveva ai piedi. E fatti questi appunti di genere, sentiamo come ringrazia il pubblico, poi se siete interessati, beh, scrivetemi, metterò in linea l'intera conferenza. First of all, I want to say how pleased I am by such a lovely introduction. Mi avete presentato talmente bene che vi devo ringraziare. I unfortunately did not understand a word of it because they don't speak Italian. Sfortunatamente non ho capito niente di quello che è stato detto perché naturalmente non parlo italiano. But I know it was a very complimentary introduction or you all would have stood up and left. Ma sono certo che si sia trattato di una introduzione fantastica, altrimenti ve ne sareste andati tutti, no? I'm delighted so many of you came and I want to thank you for coming. Beh, questo era il ringraziamento al pubblico presente, abbastanza numeroso, ne ha visto di più alla Libreria del Giallo, però diciamo comunque la sala era piena. E soprattutto la gente appassionata che conosceva lo scrittore, c'era anche chi si era preparato stampandosi la bibliografia completa e pensandosi delle domande, insomma, mi fa un pochino sempre sorridere il fatto di voler essere un po' secchioni anche in queste situazioni, insomma, se uno ha letto il libro, ha delle domande nate dalla sua esperienza di lettore, mi sembra molto più interessante, oppure dalla sua esperienza di scrittore, anche magari in erba, piuttosto che prepararsi a tutti i costi come per il temino, però vabbè, a ognuno il suo. Allora, abbiamo iniziato questa trasmissione, questo podcast con Giuliana Hetfield, in realtà volevo iniziare con un altro pezzo, ma apriamo una parentesi, mi sono dimenticato prima, parlando appunto della giornalista che ci ha intervistato, ci ha chiesto se ci sono voci femminili nel podcast italiani, e no, ancora io non le ho sentite, e quindi se qualcuna all'ascolto e vuole farsi sotto, beh, intanto magari si compri Glamour e troverà un po' di istruzioni su come cominciare, poi può chiederci un po' di dritte. E penso che sarebbe molto apprezzato sicuramente da chi scrive di queste cose per un pubblico femminile. E poi perché no, noi siamo abituati soprattutto per la tecnologia a pensare al maschile, non è detto che sia così, comunque all'estero spesso non è così e anche da noi sarebbe bene che non lo fosse. Dicevo, abbiamo iniziato con un brano di Juliana Hetfield, in realtà quello che volevo presentarvi per primo è un brano che mi è piaciuto molto, di un gruppo newyorkese, si chiamano i Tuesday Suits, i vestiti del martedì, e è un gruppo che ha al suo attivo un paio di, adesso si dice CD, una volta si diceva LP, e che per chi come me è cresciuto un pochino a Pane e Clash, insomma, diciamo che ha ascoltato magari non proprio la musica del 77, che eravamo troppo piccoli, ma sicuramente quella dei primi anni 80, diciamo post-punk, comunque inglese, con una grossa influenza dei gruppi che hanno fatto un po' la storia del rock, anche se a me è una parola che non piace, alla fine degli anni 70, insomma i Clash, piuttosto che gli Style Council, Paul Weller, eccetera, e, oppure sul lato americano i Talking Heads, beh, per chi come me è cresciuto con questa musica, un brano del genere può essere piacevole, sicuramente riportare alla mente suona, alla memoria, suoni che non si sentivano da un po' di tempo. Tuesday Suits, ascoltiamoli. Gonna give up the buff. Tell her what she wants. Beh, si sente parecchio anche l'influenza di certa musica americana, soprattutto quello che loro definiscono punk, tipo gli MXPX, soprattutto le loro versioni più melodiche, un po' meno aggressive. A me piacciono abbastanza, e comunque ci sono abbastanza brani loro scaricabili gratuitamente, credo 5-6. Non è male, riempitevi un po' l'iPod, ascoltateli se vi piace questo genere di musica. Vabbè, qua diventano un pochino molesti forse per il nostro ascoltatore medio. Passiamo agli altri argomenti per questa sera, alcuni di quelli che mi ero preparato. Intanto un podcast americano che nasce da una trasmissione di una radio in streaming abbastanza conosciuta, che si chiama, credo, Free Matrix, adesso beh, recuperiamo le note, che mi ero fatto. Il podcast si chiama The Revolution, va in onda, mi sembra, solo il venerdì, ma non sono sicurissimo. Comunque poi trovate tutto sulle note di copertina del podcast. E la radio si chiama Free Matrix Radio Network. E il podcast ha la particolarità di proporre solo musica sotto Creative Commons, e buona parte della musica la prende da un sito, un servizio lanciato non molto tempo fa da Creative Commons, appunto, che si chiama CC Mixter, dove chiunque può proporre i propri mix di materiale sotto Creative Commons, e mix ovviamente audio, e è possibile anche riprendere mix fatti da altri, remixarli, insomma è una specie di palestra per DJ in erba. E The Revolution ha particolare attenzione per musica, definiamola easy listening, non saprei come, anche se non è l'etichetta giusta, ma comunque piacevole da ascoltare, ha una durata di quasi un'ora, per cui va benissimo per chi fa lunghe trasferte in macchina oppure ha un po' da scarrozzare per andare in ufficio di giorno, e quindi gli fa piacere ascoltarsi un'ora di musica abbastanza tranquilla, virante ogni tanto un pochino al acid jazz, comunque con un po' di ritmo e un bel sottofondo musicale per meditare o anche per fare altre attività. Io l'ho ascoltato mentre programmavo e è stato abbastanza piacevole. Ascoltiamo l'attacco, l'inizio del podcast, e poi zigzaghiamo un pochino su qualche pezzo e sentiamo un po'. From a secret bunker somewhere in North America, it's The Revolution. One, two, three, and... That's right, it's The Revolution. For Friday night, January 21st, 2005, or Saturday, January 22nd, 2005, depending on what time zone you're in. But I'm in the Eastern time zone, on the East Coast of North America. Come sentite... Beh, la musica è abbastanza soft, beh, loro sono molto bravi, hanno un approccio decisamente professionale da radio che noi siamo ancora ben lontani dall'avere. Sentiamo un pochino qualche pezzo di quelli che propongono, scusatemi un po' la ruvidezza del mix, ma vabbè, stiamo imparando. Sentite, sono brani molto ritmati. Beh, questo è molto particolare perché ha delle voci di bambini mixati dentro, abbastanza carino, e in generale abbastanza soft. Scorriamo un pochino più avanti e ricordiamoci, tutto materiale Creative Commons, non infrangete nessuna legge, se lo scaricate non lo pagate e magari lo modificate anche. Beh, con la mia solita fortuna direi che ho preso la fine di un brano, proviamo a spostarci un pochino più avanti, poi passiamo a qualcos'altro. sentite niente di eclatante, non sono certo gli U2 che parentesi non piacciono per niente, ma o qualcuno di altrettanto famoso, però un buon tappeto musicale per pensare, per meditare o per fare qualche attività che impegna magari le mani o una parte della testa, ma lascia spazio per un po' di suoni. E altro pezzo che volevo proporvi questa sera è un pezzo di un artista che si chiama Oliver Ignatius, che è un po' particolare perché mostra come a volte dal liberare i propri contenuti su internet e lasciarli in download gratuito agli ascoltatori si possa anche arrivare sui media, quelli tradizionali, quelli che contano. Oliver Ignatius in particolare era stato segnalato qualche tempo fa, adesso non è per fare quello che dice sempre no, il puffo che si ribellava sempre, che non piaceva niente, ma anche perché sarei un po' oversized come puffo, ma a me non piace tanto questo artista o questo brano in particolare, mi sembra un po' uno scimmiottamento dei Beatles senza gran carattere. È venuto tanto tanto tempo dopo. Comunque, diciamo, Ignatius ha la particolarità di essere stato segnalato da tempo fa da uno dei blog che contano, che si occupano di musica in gran parte libera. Libera vuol dire Creative Commons, o comunque liberamente scaricabile. Il blog si chiama Music for Robot e l'aveva segnalato qualche mese fa dicendo che era un pezzo tutto sommato non male, ascoltabile, anzi gli era piaciuto molto l'autore del blog. E il pezzo e l'artista sono stati ripresi da MTV, che l'hanno lanciato poco tempo fa in una trasmissione di MTV che si chiama You Hear It First Here, praticamente che lancia nuovi artisti, e un po' perché il pezzo, vabbè, comunque è orecchiabile, ha qualche qualità, e poi pare che sia anche abbastanza non male il tipo. Io non l'ho visto, non mi interessa neanche particolarmente, forse se siete di altri sessi o altro sesso, altre inclinazioni, andatevelo a vedere, vi può piacere. E quindi è stato lanciato da MTV e mostra come a volte la strada per la notorietà, anche se forse in questo caso un po' effimera, può passare anche da contenuti liberi rilasciati via internet e soprattutto dal tantan dei blog, che è sempre, sempre più potente. Ascoltiamoci Oliver Ignatius. I won't ever get you back. You're always on the attack. No matter who you choose to upset, I like you. I don't want to disappear. You do it every year. Lend me some time, cause I don't know and I'll never want to. And I don't like to pass you by. Everything's inside. Everything's all mine. I just wanna have your plane. Till everybody's the same. Till everybody's the same. So bring me up and bring me down. When everybody. Vabbè, un brano che definirei orecchiabile, non molto di più. Per a uso e consumo della cronaca, diciamo che la band di questo signore si chiamano The Hysterics, e, vabbè, mi sembra abbastanza appropriato. E che altro? Beh, ho ancora un brano da farvi sentire, veramente ne avrei più di uno, ma li tengo per la prossima volta, anche perché è tardi, dopo l'incidente del podcast sparito, per mia colpa, ripeto. E forse sarebbe anche bene andare a dormire per non rovinare i benefici effetti del sonno faticosamente guadagnato durante questi 2-3 giorni di vacanza. E appunto 2-3 giorni di vacanza in cui sono andato all'estero in Francia e beh, è stata una bella scoperta per me fumatore vedere che al bancone del caffè, insieme alla tazzina del caffè, viene ancora dato il portacenere, che tutti fumano tranquillamente nei locali pubblici. Adesso mi attirerò le ire dei politically correct o semplicemente dei non fumatori che per anni sono stati vessati da noi fumatori, e però per chi fuma è abbastanza una liberazione. È abbastanza sorprendente anche notare come dopo la campagna mediatica, pubblicitaria, eccetera, eccetera, di quest'ultimo periodo con la legge antifumo in Italia, anche chi come me è fumatore abbastanza incallito e comunque abbastanza resistente alle lusinghe dei mass media, abbiamo avuto un certo slittamento di piani cerebrali, non saprei come definirlo, perché ormai è un assunto che nei locali non si fumi, e quindi la mia reazione la mattina di sabato a entrare in un bar, chiedere un caffè e vedere quello di fianco se accendeva la sigaretta è stata di estrema e assoluta meraviglia, seguita appunto dall'estrazione della sigaretta, accensione e un bel sospiro di sollievo. E faccio una parentesi, sì, so che il fumo fa molto male e non lo sto pubblicizzando, sto solo dicendo che se abitate nel nord Italia e vi manca proprio l'esperienza di mangiare e poi dopo il caffè farvi una bella sigaretta seduti in panciolle, beh, è presto risolvibile, rimediabile, prendete un treno, un aereo e andate in Francia. Altra cosa che ho notato, vabbè, adesso stiamo parlando proprio di le esperienze quelle più superficiali, ma ho notato che in Francia, a Parigi, anzi diciamo a Parigi perché ero a Parigi, non c'è la mania del cellulare come qua, i cellulari non sono onnipresenti, i negozi di cellulari non sono ogni angolo di strada, magari lo sono nei quartieri più d'affari, come sì, mi ricordo da quando qualche anno fa mi capitava di andare a Parigi abbastanza spesso per lavoro, però girando per la città io di negozi cellulari non ho visto neanche uno, i chilometri macinati sono stati molti e non sono stati solo in zone turistiche. E oltretutto anche sugli autobus la gente non ha il telefonino attaccato all'orecchia per parlare con mamma, fidanzata, amico, amici, colleghi di lavoro, e tutto sommato un'esperienza abbastanza rilassante, se poi ci aggiungiamo che le cose sembrano funzionare come è abbastanza d'uso man mano che si va su in Europa, un po' meglio che da noi, beh, sicuramente una vacanza consigliata, di bagno o di civiltà a salutare. Altro piccolo esempio delle tante differenze che ci sono tra il nostro paese e quelli un pochino più su di noi, beh, quando sono arrivato stamattina presto in stazione per prendere il treno e al momento di salire sul vagone mi si para davanti Marco Antonio, anzi veramente erano due, che in pieno stile serial TV vestra un tesserino e dice dogana e mi chiede documenti di ispezionare la mia borsa. Poi ho visto che non fermavano poca gente, era abbastanza diffusi i controlli e vabbè, in parte forse era dovuto anche al mio aspetto mattutino che non è dei migliori e poi la mia abitudine di vestirmi un pochino diciamo casual. Beh, fatta la perquisizione al bagaglio ovviamente, io ho accettato di subire di buon grado perché era loro pieno diritto, e i doganieri mi hanno fatto un bel sorriso genuino e mi hanno augurato buon viaggio tutti e due e basta, si sono dedicati agli altri loro compiti. 3-4 ore più tardi è arrivato alla frontiera con l'Italia, sono saliti poliziotti, guardie di finanza coi cani e in maniera abbastanza brusca hanno fatto alzare un po' di persone per controllare i loro bagagli. Si vede che il mio aspetto è più tranquillizzante per gli italiani, forse le ore di sonno che nel frattempo ho accumulato sul treno ha migliorato un pochino la mia presenza fisica. Però la differenza di atteggiamento tra le forze d'ordine francesi e quelle italiane era veramente notevole. Quello che mi ha colpito di più è che i francesi, esaurito il loro compito, si sono trasformati in persone normali, anzi quasi non a volersi scusare, perché non era una scusa, ma a mettersi semplicemente dall'altra parte, dalla parte di chi non ha in quel momento potere né autorità, mentre invece forze dell'ordine italiane, beh, come ce le possiamo aspettare, come le conosciamo, diciamo che a loro forse parziale o magari anche totale scusante possiamo addurre condizioni di lavoro sicuramente diverse e meno tranquille, meno dispongono verso un atteggiamento di comprensione per chi sta dall'altra parte. E chiudiamo questo podcast con un brano di Soul di Sharon Jones and the Dub Kings, abbastanza carino, anche se la qualità audio non è delle migliori, di un'etichetta discografica di quelle indipendenti che sempre più si stanno affermando grazie anche a internet, perché riescono a farsi pubblicità con pochi soldi e poi offrendo musica in download gratuito si fanno conoscere attraverso appunto tutti i blog che si occupano di musica, di MP3, come quello che citavo prima, che tra l'altro è lo stesso che ci segnala questo brano. La casa discografica si chiama Dubton Records e gli artisti sono Sharon Jones and the Dub Kings, e al prossimo podcast. Ciao a tutti.